D'inverno il sole è stanco, a letto presto se ne va. Non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita? Sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mi hai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la manchi tu, se manchi tu, se manchi tu.